Ciao a tutti e benvenuti su Notizie Virali, undicesima puntata. Devo fare l'effetto io, Virgi, perché non c'ho pronto gli effetti. Salutito. Sì, ho solo pronto il solito, a lavorare. Non ho bisogno di tornare a lavorare, Eccoci, dopo aver sentito Sala. No, la voce di Peppe Sala perché... No, no, ascolteremo delle voci diciamo più importanti di quella di Beppe Sala. Sì, soprattutto riguardo al momento storico che stiamo vivendo, che è un momento molto particolare, un anno molto, molto intenso quello che stiamo passando. Dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis è successo che negli Stati Uniti sono scoppiate delle vere e proprie rivolte in piazza. Giustamente il movimento Black Lives Matter ha iniziato a spingere più del solito per dei diritti che sono dei diritti fondamentali. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno una storia brutale di schiavitù molto recente, hanno una storia di schiavitù che si è tramutata in una storia penitenziaria e in repressione violenta da parte delle forze carcerati, soprattutto carcerati neri, carcerati non bianchi, negli Stati Uniti è altissimo. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di persone incarcerate nel mondo, il 25% esatto. Delle persone incarcerate nel mondo stanno negli Stati Uniti, quindi è una rivoluzione che è necessario portare avanti in qualsiasi momento, e in questo momento questo fatto tragico e questo omicidio di cui i colpevoli sono stati giustamente loro di farsi la galera, lotta che comunque era in atto da tantissimo tempo ed è una lotta fondamentale per diritti umani, direi più che di violenza indirizzata a precisi gruppi razziali e precise persone che sono dei target molto facili della polizia. Nel frattempo le rivolte si sono allargate e sono sconfinate fuori dagli Stati Uniti e sono arrivate in tutto il mondo, perché appunto quando si parla di diritti umani, i diritti umani sono gli stessi per tutta l'umanità. Quindi di questo argomento non è neanche completamente giusto che lo facciamo noi, è giusto che diamo spazio a chi deve parlare, deve guidare in questo momento la rivolta anche qui, quindi avremo degli ospiti oggi che saranno innanzitutto la nostra amica Sara, che vive a New York, una ragazza afro-italiana con cui ho lavorato e che sono anche andata a trovare a New York quando si poteva viaggiare. Avremo Selam del comitato Abba Vive, che diciamo ci racconterà anche di che tipo di lotte vengono condotte in Italia e del motivo per cui è necessario scendere in piazza anche qui, perché non siamo certo messi come gli Stati Uniti, ma non siamo certo meglio. E poi ci sarà, forse se ci risponde, il rapper afro-italiano Tommy Cuti, che si è espresso anche su Instagram, sui social network in questi giorni, sul problema della rappresentazione in Italia, che è un altro problema molto importante, perché dalla rappresentazione si può intavolare anche un discorso più continuativo e che sia indipendente dai momenti in cui questo tipo di lotta e queste questioni diventano di moda, tra molte virgolette. Certo. Quindi io partirei, Fred, dimmi se siamo pronti, partirei. No, siamo pronti, hai detto tutto, condivido tutto, quindi non ho dovuto aggiungere assolutamente niente, ho solo riso un attimo quando tu hai detto quando ancora si poteva viaggiare, in relazione al fatto che eri andato a trovare Sara a New York. Esatto, bei tempi. Aggiungo solo che è necessario più che mai costruire una narrazione, appunto, anche in Italia, di quelli che sono i crimini razziali che vengono commessi in Italia, perché anche qua ce ne abbiamo, ma avremo modo di approfondire. Mandiamo il contributo di Sara? Perfetto, grazie mille Sara per questo contributo, splendido e buon ascolto. Ciao a tutti, sono Sara. Per chi non mi conoscesse, sono una ragazza italiana originaria della Costa d'Avorio. Mi definisco quindi afro-italiana. Innanzitutto, grazie mille a Virginia per avermi dato l'opportunità e lo spazio di esprimermi. Ti mando un bacio, Virgi. Sono nata e cresciuta a Milano, città alla quale devo davvero molto. Vivo più o meno da 5 anni a New York. La musica è sempre stata la mia passione. Sono infatti chitarrista, DJ, music curator e ho anche fatto da manager e artist developer ad artisti musicali. Qualche volta scrivo articoli di musica per riviste. Nel 2012 ho iniziato la mia carriera da DJ a Milano. Dal 2013 in poi ho iniziato a far parte ufficialmente ad Achimo Zamunda, per poi diventare resident DJ a Rocket per diversi anni. Queste esperienze, passione per musica e l'amore mi hanno portato in un modo o nell'altro a trasferirmi a New York, dove ho fondato la mia piattaforma di musica Rare Peace, dedicata alla scena underground, focalizzandomi in particolare nell'elevare artisti di colore e LGBTQ+. In questo momento dovrei dire che la situazione a New York è critica, emozionante, ma allo stesso tempo frustrante. Da un lato è bello vedere un'immensità di culture unirsi e lottare per lo stesso motivo. Dall'altro lato ci sono sempre il razzismo, le lacrime, la tristezza, rabbia, incomprensioni ed estrema violenza. Personalmente ho avuto, anzi sto avendo spesso dei giorni bui dove non capisco il perché. Non capisco perché la mia pelle debba essere un crimine, un feticcio, una tendenza, un oggetto e uno strumento. Non capisco perché sia così difficile dovermi spiegare. Non capisco perché le cose non siano mai veramente cambiate, non solo qui in America, ma nel mondo. Non capisco perché alcune persone preferiscano non parlarne. Il diritto di uguaglianza non dovrebbe essere un discorso tabù. Si vede che non sapere cosa si prova ad essere come me in questo momento è anche un privilegio. Qualche giorno fa ho avuto modo di partecipare a una delle tante proteste che si stanno svolgendo in questi giorni a Brooklyn. Per una persona cresciuta come molti di voi guardando film americani su diritti civili, da Malcolm X con Denzel Washington a Do the Right Thing di Spike Lee, ovvero fa la cosa giusta, partecipare ad una vera e propria protesta per questi stessi diritti mi ha semplicemente riempito il cuore. Per la prima volta nella vita non mi sono sentita da sola in un gruppo di sconosciuti. Le voci delle persone erano attorno a me, erano anche la mia. La loro frustrazione era la mia. Finalmente si era alzato il volume e mi sono quasi sentita invincibile. Mi sto attivando molto anche nel mio piccolo. Ho infatti recentemente rilasciato diverse interviste anche con giornali italiani. Vi terrò al corrente sul quando poi usciranno. Settimana prossima parteciperò a un podcast per una radio situata nel New Jersey. Sono anche diventata contributor di Ruskeet Tjot Media, una piattaforma di Helsinki fondata da ragazze afrofinlandesi. Uno dei miei progetti più grandi di cui vado fiera è ciò su cui mi sto occupando, assieme alla mia band preferita di sempre, i Distillers. Con loro stiamo cercando di lavorare sull'importanza, rappresentazione e la consapevolezza di persone di colore nella scena musicale alternativa. Io stessa sono cresciuta frequentando la scena punk, rock, metal, emo e devo ammettere che a volte è stato estremamente difficile per me essere a mio agio. Ho sempre avuto amici fantastici che mi volevano bene per quella che ero, ma non sono mai mancati gli episodi di razzismo estremo da persone esterne che non mi conoscevano ed erano semplicemente disturbate dalla mia presenza. Ho passato le ultime 48 ore a parlare con Brody Dahl, la cantante dei Distillers, e ho avuto modo non solo di farle da mentore su certi argomenti, ma anche di darle un punto di vista schietto ed esterno. Mi sembra ancora incredibile, visto che i testi della sua musica mi hanno spesso fatto da mentore. È importante aprire la conversazione con le persone che abbiamo attorno. Molto spesso in Italia si cerca appunto di evitare il confronto, quasi come se si avesse paura, no, di affrontare un discorso troppo profondo. Se avete amici che fanno commenti razzisti o comunque stereotipati, dite qualcosa ogni volta. So che può sembrare un niente, ma in realtà porterà questa persona a pensarci di due volte la prossima volta, appunto. E educare le persone che abbiamo attorno a noi è sempre il primo passo. Cercate quindi di includere persone di diverse culture, etnie, nei posti di lavoro, soprattutto nel settore artistico. Sinceramente, vedo un sacco di appropriazione culturale e oggettificazione della pelle nera, quasi come se fossimo solo bravi ad essere dei modelli, ma non delle persone vere e proprie. A Milano, ragazzi e ragazze bianche che si comportano e vestono con stile di cultura afroamericana non si rendono conto di essere fortunati, non si rendono conto di poterlo fare senza essere definiti ghetto. Noi sì. E queste sono le stesse persone che poi ti chiamano N di merda. Sia chiaro che non sono contro chi apprezza con il cuore rispetto alla cultura afroamericana perché ce ne sono e come là fuori, e li ringrazio per aver contribuito a renderla una cosa normale ed accettabile, almeno a Milano. Usate le vostre piattaforme in modo costruttivo e cercate di normalizzare il discorso. Siate vicini ai vostri amici di colore in questo periodo, è veramente dura vedere no la nostra gente morire per niente, sia qui in America che in Italia, dove spesso veniamo trattati come cittadini di serie B. Non importiamo veramente alla società, per quanto ci vogliate bene, per quanto importiamo a voi, amici miei, là fuori ancora non ci vogliono. Questo è quello che vuol dire Black Lives Matter, non è un modo per togliere spazio alle vite dei bianchi. Non spaventatevi, avete sempre tutto quello che volete. Semplicemente vogliamo vivere tranquilli anche noi e vogliamo che la società si ricordi anche di noi. Le vostre vite già contano, contano e come? Il lavoro da fare è tanto, ma non è impossibile. Penso che sia sempre importante partire da qualcosa. Non penso neanche di avere tutte le risposte, sto imparando anch'io ogni giorno. Ma questo è quello che posso dire a chiunque voglia essere un alleato alla lotta contro la discriminazione razziale. Penso anche che la nostra generazione sia fatta da un sacco di ragazzi di culture diverse, un sacco di ragazzi gay. Un sacco di persone, comunque di una nuova generazione che penso possa avere un effetto sul mondo. Quindi questo è quello che credo. Sono molto ottimista, anche se sono stanca. È da tanti giorni che parlo di queste cose e infatti non ho più voce. E niente, spero che di essere stata di grandissimo aiuto. Vi ringrazio per avermi dato questo spazio e spero di esservi stata appunto utile. Un bacio da Brooklyn. Ciao! Allora, Un bacio. Virgi, che dire? Ho sentito adesso per la prima volta l'intervento di Sara e devo ammettere che, come stavamo commentando adesso in chat tra di noi, è stato davvero commovente, toccante ed è anche difficile commentare, ma insomma non volevo lasciare il suo appello così, solo limitato a questo audio che ci ha mandato gentilmente. Ma cioè vorrei sottolineare quanto sia importante quello che ha detto Sara, che spesso in questi giorni mi ritrovo a ripetere, ovvero il contributo più importante che possiamo dare, diciamo, alla causa è col nostro esempio. Cioè, quando veramente ci sono situazioni, ma non sono relative, diciamo, a episodi di razzismo, ma di discriminazione in generale, alziamo la voce, facciamoci sentire perché siamo nel giusto. Cioè, non dobbiamo aver paura di insomma, portare avanti le nostre posizioni perché alla fine. Comunque nei fatti c'è gente che muore, c'è gente che sta male e noi dobbiamo combattere anche per queste persone, anche se ci sembrano lontane, poi può facilmente, diciamo, succedere anche a noi o a persone che ci sono più vicine. Allora in quel momento poi non c'è, rischia di non esserci davvero il tempo. Dobbiamo costruire un'opposizione forte a tutte queste discriminazioni e volevo raccogliere anche un po' la stanchezza di Sara nel dire, cioè, che palle nel 2020 dover ancora veramente insistere su certi argomenti, su certe cose, cioè è veramente quasi anche frustrante dopo un po', anch'io in questa settimana. Posso aggiungere una cosa, Fred? Sì. Cioè, Cioè, su questa cosa della stanchezza che ha colpito molto anche me, immagino che in questi giorni ci siano persone che si sentono particolarmente stanche, sia per psicologicamente per quello che sta succedendo, sia per il fatto di dover parlare molto in questi giorni di questo argomento e doversi esprimere in un modo in cui magari si sono espresse da una vita, da sempre. Certo. E ora c'è un'attenzione particolare su questo argomento. Allora io penso che da una parte il ruolo di un buon alleato sia anche supportare con la nostra voce e dare uno spazio giusto e dare uno spazio di ascolto giusto sempre. Sempre, non solo in questi giorni, a chi ha il diritto di far sentire la propria voce, far sentire il proprio punto di vista e raccontare la propria storia. Questo è il nostro compito sempre, non soltanto in questi giorni. Totalmente d'accordo. Vai tu, Virgi, che magari hai, insomma, contattato Selam e possiamo connetterci con lei. L'ho contattata, adesso la telefono. Allora metto una musichetta, intanto. Mettiamo l'asna. Top. Ok, vado. Rastafari, Salam Kartel, thank you. Rieccoci in onda, siamo con Virginia e Selam, se non sbaglio. Oh, Ciao, ciao siamo con... Selam. Salutiamo Selam Ciao. che fa parte del comitato per non dimenticare Abba e di Cantiere e gentilmente si è prestata ad essere nostra ospite nonostante queste siano delle giornate particolarmente intense, vero Selam? Sono intense per varie ragioni, varie diverse ragioni. Io in realtà, beh, personalmente credo di essere stata molto scioccata durante il lockdown a livello italiano, sicuramente dalla situazione, cioè dall'idea di essere noi chiusi in casa, che come spesso diciamo anche non ha di meno, non sempre sono dei luoghi, non sempre la casa è un luogo sicuro o comunque accogliente. Io ho la fortuna invece di individuarla e interpretarla in una maniera abbastanza positiva, ma soprattutto l'idea di dovermi separare dalle altre persone e vedere per esempio ciò che accadeva nelle carceri, ciò che accadeva nei CPR, nei centri di permanenza e rimpatrio forzati che esistono in Italia, sapere che appunto in questi luoghi, molto più che alla luce del sole, avvengono degli abusi sicuramente notevoli. Ecco, questo mi preoccupava molto. Devo dire che la morte di Ahmaud Arbery per me è stata un video dell'assassinio, per me è stato molto pesante perché appunto l'ho guardato, vedevo un ragazzo che con una maglietta bianca e dei pantaloncini correva per il suo quartiere ed è stato freddato in una maniera abominevole. Ed ecco, vedere queste cose sicuramente si fa tremare dentro. Questa sensazione e soprattutto anche la sensazione di doverci un po' curare, no? Cioè di Certo. dover prestare cura rispetto a una comunità che indipendentemente da che abbia o meno background simili o no, comunque si riconosce, no? Ecco, allora il movimento di liberazione del popolo nero è avvenuto quasi in tutte le parti del globo, a più riprese, soprattutto spesso legato a delle dimensioni di razzismo feroce e di alterità non, che non, insomma, che adesso non saprei neanche da dove partire per raccontare, ma poi esatto, un po' anche quello che ci dicevamo poco fa, il fatto che comunque gli Stati Uniti abbiano rappresentato un esempio di messa in campo di un sistema capitalista nella sua quasi no, il tentativo del sistema capitalista perfetto, quindi anche quello più efferato, anche quello più truce. E in questo senso sicuramente il movimento di liberazione del popolo nero negli Stati Uniti è stato sicuramente importante anche nella crescita culturale, per esempio mia personale, ma anche di tante persone nere, afrodiscendenti, razzializzate, che vivono in Italia anche e che vivono in Europa. Però guardiamo anche all'Europa, no? Guardiamo anche all'Italia e quindi insomma ci sono tante voci anche qui che sono sempre più forti e tante voci anche in Europa, sempre molto in grado di parlare di razzismo. Quindi in questo momento io credo che ci sia molto bisogno di pensare a noi stessi, alla nostra comunità, alla nostra salute mentale e fisica. Quindi io ho avuto grande supporto perché ho avuto molta paura di non essere, abbiamo avuto molta paura io e le altre persone che stanno lavorando a questa mobilitazione che aumentano tra l'altro di ora in ora, Vero. abbiamo avuto molta paura, io nello specifico molta paura di non riuscire, cioè di non volevo interpretare, no, essere un'unica voce, volevo che potesse essere uno spazio in cui dare voce a tanti e a tanti, e soprattutto che non sarà il primo e non sarà l'ultimo. Assolutamente. Noi appunto, essendo un po', tra virgolette, sempre sudditi, se non comunque molto influenzati dalla cultura statunitense, anche perché appunto negli Stati Uniti c'è una narrazione anche della lotta molto forte che passa dalla musica, sempre passata dalla musica, e arriva, passa per il cinema, passa per i documentari, passa per la comunque rappresentazione molto forte che esiste. In questo momento la nostra reazione a ciò che avviene negli Stati Uniti è particolarmente forte, l'abbiamo visto con, ad esempio, questa settimana in Blackout Tuesday, quindi molte persone, molti influencer anche, che postano questo quadrato nero sul proprio feed di Instagram. Nel frattempo questo problema esiste ed è sempre esistito anche in Italia. Tu che cosa ne pensi di quello che è successo e del fatto che ci si ricordi come, no, improvvisamente ci si risvegli su una problematica quando in un altro paese, dall'altra parte dell'oceano, succede qualcosa e ci si mobilita in massa, mentre qua è un po' più difficile mobilitare le persone? Io credo che allora, io credo che ci sia un elemento molto importante da considerare, no? Allora, sicuramente, cioè, sicuramente bisognerebbe fare un'analisi sul perché, nello specifico, la morte di George Floyd sia stata detonatrice di una serie di questioni che negli Stati Uniti stanno emergendo anche grazie al lavoro di tantissimi attivisti che lavorano sul territorio. Minneapolis, per esempio, è piena di persone che lavorano sul territorio e quindi sono anche riuscite a convogliare e a far confluire tantissime comunità differenti. In Italia, quello che il movimento Black Lives Matter ha fatto, per esempio, nel momento, no, dell'uccisione di Mike Brown e di Eric Garner, che è stato, insomma, un periodo molto, molto teso anche, no? È stato sensazionale, ma quello che sta succedendo ora è ancora di più. E la capacità di essere radicali, più radicali di allora, è ancora più importante. E anche la capacità di non essere pochi leader, quello che hanno imparato dai movimenti per i diritti civili, credo che sia stato anche quello di non accentrare nella leadership, ed è quello che cercherei anche di raccontare dell'Italia. Non c'è una voce, ma sono tantissime e stanno emergendo sempre di più. Ed è questa forse un po', no, con un insegnamento quasi zapatista, mi viene da dire, l'orizzontalità di questi movimenti è molto importante. La giovane età, l'orizzontalità e l'intersezionalità che sono riuscita a raggiungere proprio nella materialità delle piazze negli Stati Uniti in questo momento. Quello che ho notato qui è stato, come sempre, come raccontavi tu, la tendenza a trasporre un trend, no? Cioè a individuare lo Klezmer as a trend. Quindi riportiamo, no, alcune questioni, però credo che la capacità che ha avuto il movimento in questo momento negli Stati Uniti di essere molto capace di non accettare ipocrisia si è arrivato anche qua. Cioè anche qua io ho visto una capacità di ascolto non completa, ma inizia a esserci, no? Inizia a esserci la necessità di non essere sordi alle istanze, di non prendere un pacchettino già preconfezionato, ma di dover in qualche modo anche scavare un po' di più a fondo. E in questo senso credo che io ho trovato delle orecchie un pochino più capaci di ascoltare, e ho trovato che in questo momento ci sia la possibilità di aprire uno spazio comunicativo molto importante, e che in qualche modo ci può aiutare anche a comprendere di più i fenomeni italiani e come i fenomeni di azione istituzionale che si sono accavallati negli anni non sono mai se tu chiederai a una persona razzializzata che vive in Italia da tanti anni, con Salvini la situazione è peggiorata, non si dirà mai che la situazione è peggiorata per Salvini, perché adesso c'è un governo diverso e pure i decreti Salvini sono ancora lì. Certo. Eppure anche quando non c'era il governo Salvini la legge Bossi-Fini non è mai stata abrogata. In realtà in Italia si pratificano, no? Anche a livello di razionale professionale, una serie di provvedimenti che vanno sempre di più a modellare un sistema che è sempre di più un sistema che costruisce dei privilegi e li rende inattaccabili sotto vari punti di vista, non soltanto dal punto di vista, diciamo, del costrutto sociale della razza, no? Che sappiamo non esistere a livello biologico, ma esiste come costrutto sociale. Ed è una cosa che, per esempio, ancora in Italia facciamo fatica ad accettare, no? Anche negli ambiti più diciamo progressisti o comunque aperti al tema, diciamo, dei diritti umani, perché volentieri si dice no, ma la razza non esiste. Ecco, non è dicendo che non esiste che non smetterà di esistere il razzismo e i presupposti ideologici su cui si basa il razzismo, che sono presupposti che si basano sull'idea che una razza esista non solo da un punto di vista biologico, quindi, ma anche soprattutto da un punto di vista sociale. Certo. Io credo che questa cosa qua abbia creato un discorso rispetto al tema dell'influenza. Io credo che ogni pratica sia giusta se non è fine a se stessa. Quindi se noi stiamo parlando, lo diceva bene la Tisha Marshall in un articolo su Medium, se noi siamo in grado di guardare agli Stati Uniti con uno sguardo attento di solidarietà e anche di ascolto rispetto alla capacità che hanno avuto queste compagne, questi attivisti in questi territori di portare avanti certi tipi di discorsi, anche prendere spunto, ma non solo da quei territori, mi viene in mente anche dal Brasile, dovremmo prendere assolutamente esempio, e dai territori e da alcuni paesi africani che stanno facendo emergere una cultura, un pensiero anche molto giovane, sempre più, no, globale, sempre più capace di essere virale. Io credo che da questo punto di vista quel tipo di influencing sì, è fine a se stesso, è un po' autocelebrativo, un po' sì, anche io faccio parte di questo grande movimento che ha scosso il mondo. Mi sembra in parte anche normale che quando chiediamo che queste tipo di istanze vengano prese in mano da un grande ampio spettro di persone. Certo. Poi, ci siano diversi livelli anche di attivazione e di attivismo, sì. Tu hai parlato di intersezionalità, che per me è un concetto fondamentale. Ti andrebbe di aiutarmi e aiutarci a capire perché è fondamentale l'intersezionalità? Oddio, anche io devo dire che sono una attivista studiosa e autodidatta e facciamo tanta autoformazione anche noi, quindi assolutamente, ecco, la mia domanda principale è spesso volentieri come si passa dalla teoria alla pratica, quindi ancora anche noi ci interroghiamo costantemente, no, su come poter, però a grandi linee che cos'è? A grandi linee noi viviamo in un sistema economico e sociale capitalista a livello globale, neoliberista, a livello proprio di pratiche economiche e sociali, e in questo sistema in modo differente ogni persona, ogni individuo, ogni soggettività, per essere un po', diciamo, più corrette, subisce una discriminazione, subisce una serie di discriminazioni che si intersecano. Ecco, l'intersezione di questi atti, l'intersezione di queste discriminazioni compone, la diciamo, vanno a colpire vari aspetti, no, della persona. Certo. Quindi ci sono negli anni, no, Kimberlé Crenshaw è una giurista afroamericana, è stata quella che ha portato il termine a livello giuridico e poi ha permesso, no, alla sociologia, alla, alla filosofia politica e all'attivismo di strutturare il mondo questo pensiero, però lei lo affrontava da un punto di vista giuridico, no? Diceva, ma quando io vado in tribunale e mi trovo una causa in cui una donna afroamericana viene colpita da delle discriminazioni sul luogo di lavoro, non solo perché è donna, ma perché è una donna afroamericana, non smette di essere afroamericana anche che donna, come faccio io ad andare in un tribunale che mi chiede di scegliere che tipo di discriminazione voglio, a che tipo di discriminazione voglio appellarmi, se posso scegliere solo se è una discriminazione di genere o se è una discriminazione legata alla razza. Certo. Perché io potrei dirti, certo, potrebbe dire sono una donna, vengo discriminata in quanto donna. No, io vengo discriminata in quanto donna afroamericana perché la particolare condizione dell'intersezione di questi due elementi porta a far sì che la mia persona venga discriminata. Non tutte le donne vengono discriminate nella stessa maniera, non tutti gli uomini neri e non tutti gli uomini neri subiscono quelle che le donne nere affrontano. E quindi, insomma, Kimberly Crenshaw, attraverso lo studio di alcuni casi giuridici, riesce a evidenziare questo elemento, che poi ci aiuta tantissimo nella politica di tutti i giorni a capire che noi siamo. Quello che per me è importante anche è che si capisca che in piazza domenica non arriveranno soltanto delle persone nere o razzializzate che subiscono il razzismo in prima persona, certo, ma verranno anche tantissime persone che sono alleati concreti nella lotta, perché non perché solidarissimo e si ergono a io non subisco la discriminazione, quindi aiuto te, poverino. Quindi non con un atteggiamento quasi misericordioso, ma con l'atteggiamento di chi sa che anche la sua persona è soggetta a delle discriminazioni. Discriminazione di classe, discriminazione di genere, e che è proprio nella comprensione che le discriminazioni che affrontiamo singolarmente o a livello di soggettività possono essere diverse, ma soltanto quando ognuna di questa soggettività comprende che deve lottare, può stare su uno degli assi e essere con me alleata nella lotta alla costruzione di un altro mondo possibile. Questo ci tengo a dirlo perché io faccio per esempio parte di una comunità che si definisce meticcia, nel senso che crediamo nel pensiero della trasformazione, crediamo che la città di Milano sia questo, e che crede fortemente nell'intersezione delle lotte, certo. Ma allo stesso tempo questo non vuol dire fare meno fatica, si fa fatica, si deve ascoltare tanto e spesso volentieri anche all'interno dei gruppi bisogna, no, essere, ci vuole una crescita, no? E quindi si cambia, si ragiona, ci si evolve. Anche nell'Unione di Nero Milano, per esempio, sta ragionando come aderire a questa piazza e come portare messaggi delle battaglie transfemministe che affrontiamo, ma anche come portare il messaggio della capacità di ascolto che si porterà in piazza. E quindi, ecco, ognuno di questi momenti ci può aiutare a crescere, e non ci ferma lì la crescita, ovviamente. Ci vuoi raccontare qualcosa di più del modo in cui è stato concepito la protesta di domenica e di come è stata organizzata, date anche i tempi che corrono, in che modo state organizzando ad esempio la sicurezza e insomma come sarà questa piazza? Allora, come sarà questa piazza? È una grande domanda. Allora, l'evento, come avete visto, è uscito, se non sbaglio, mercoledì mattina. Siamo a venerdì, a me sembra di essere passati 100 anni. È stato molto faticoso. No, noi dopo la morte di George Floyd abbiamo valutato il presente dalla sera alla mattina di fare il flash mob, in cui abbiamo coinvolto anche alcuni, insomma, la comunità, la grande rete di Nonna di Nino, molto velocemente, anche perché mentre lo pensavamo stavamo facendo un'assemblea e quindi abbiamo lanciato la proposta. Ci siamo ritrovati colpiti nel pieno dall'onda comunicativa e siamo stati contattati compagni che conoscevamo e persone che non conoscevamo ancora e che abbiamo quindi poi conosciuto, con cui ci siamo confrontate e con cui abbiamo compreso che c'era bisogno di sfruttare questa onda comunicativa per parlare del razzismo in Italia e riuscire anche a far capire che è piuttosto ipocrita parlare di dire Black Lives Matter in senso generico senza comprendere quanto esso abbia un senso molto concreto e specifico. Dopo una serie di discussioni abbiamo lanciato questa piazza. Sinceramente non ci immaginavamo che potesse avere questa risonanza e che si potesse inserire in un weekend di mobilitazioni a livello di mobilitazioni a livello italiano decisamente numerose, molte belle, molto anche genuine, ecco. Dopodiché, appunto, sappiamo che il testo del nostro evento, che parla molto chiaramente di come Black Lives Matter debba essere qualcosa che ci fa riflettere sul nostro territorio, è stato molto apprezzato, anche perché appunto è stato scritto in maniera molto proprio sincera, anche veramente anche con la stanchezza, no? Che ci si porta dentro a certo. Vedere che certe cose non vengono. Non vengono colte rispetto a domenica stiamo ancora ragionando su quali saranno le forme migliori, no? Per garantire una partecipazione che possa permettere la cura soprattutto della nostra salute. Ci teniamo perché insomma ci teniamo a lottare perché la nostra esistenza abbia un valore e soprattutto venga riconosciuta all'interno di noi, da noi stessi, e allo stesso tempo ci teniamo alla nostra salute. Quindi non cercheremo di prestare attenzione, abbiamo pubblicato delle raccomandazioni sì. che abbiamo sviluppato da un punto proprio di vista anche sanitario, cercando di prestare attenzione alle varie esigenze. Stiamo cercando di immaginare, ma ancora non abbiamo tutti i dettagli, delle modalità di stare in piazza che permettano una partecipazione, diciamo, safe, sicura da parte di tutti e tutti. Ci teniamo comunque a dire che è molto importante anche la percezione che ogni individuo ha rispetto al tema, no? Cioè, non so come dire, nessuno si deve sentire in colpa a non venire se non se la sente da un punto di vista anche fisico o che vive delle condizioni che non gli permettono in qualche modo di sentirsi sicuro, o di qualche modo ha paura di mettere a rischio delle persone con cui vive o con cui insomma fa certo. molto tempo. Quindi insomma questo è importante. Sì, sì. Nessun senso di colpa, ma anche la capacità di rispettare l'esigenza di chi invece ha bisogno di ritrovarsi. Beh, cosa posso aggiungere? Io volevo farti una domanda su, insomma, stiamo parlando molto in questi giorni su, anche tu l'hai menzionato, dell'allyship, cioè come posso io essere una brava alleata e non comportarmi in maniera, tra virgolette, paternalistica nei confronti del movimento, ma essere un appoggio giusto a una lotta che chiaramente mi appartiene, perché abbiamo parlato di intersezionalità, ma di cui non dovrei essere io, diciamo, la voce e il leader, farmi guidare e essere un aiuto alla guida. Qual è il modo corretto, secondo te, per farlo? Allora, non c'è una ricetta, secondo me. però e soprattutto è un discorso davvero, davvero molto anche proprio per me, a partire da me sì, la mia è molto, molto difficile e complicato. Ci interessa essere in grado, diciamo, di aver stimolato la capacità di ascolto, quindi siate in piazza con delle orecchie disposte ad ascoltare, veniamo in piazza con davvero la volontà di capire, insomma, che ci può essere uno spazio dove non è necessario parlare, ma anche con la capacità di portare il fatto di dire ci sono perché stiamo lottando insieme, ci sono perché I got your back, no? Cioè, ci sono perché ho come si dice in italiano? Ti parlo il culo anche. Ecco, insomma, non devo per forza, ci sto al tuo fianco, sto dietro di te e nel caso in cui ci sia bisogno anche davanti a te a tutelarti. Certo. Questo però deve fare aprire una riflessione anche rispetto proprio a come io vivo la mia vita, no? Non soltanto a io non verrò mai fermata per strada perché e allora quindi loro e quindi, ma anche io nel mio ambito lavorativo, io nel mio ambito di studio, io nel mio ambito di vita, che cosa faccio concretamente? In ogni ambito noi ci dobbiamo porre il problema di come in qualche modo non copriamo le altre istanze. Se i nostri luoghi di lavoro sono alcuni sono completamente, diciamo, italiani bianchi. Ci dobbiamo fare delle domande. Se ci sono delle difficoltà oggettive, materiali e concrete, come possiamo, diciamo, risolverle? Se invece queste non sono delle cose materiali, ma sono delle questioni, diciamo, culturali, come fare delle riflessioni di gruppo per affrontare questa cosa? Quindi io credo questa cosa qua, e soprattutto in questi giorni probabilmente se avete delle persone, degli amici, delle amiche nere, indipendentemente dal fatto che non siano statunitensi, chiedetevi come va. Certo. Abbiate cura del loro stato, perché io per esempio ho dovuto davvero quasi ogni passo, io non sono una, cioè nel senso non ho mai affrontato così, cioè oddio, no, non è vero, non ho mai affrontato così una mobilitazione, però ne faccio parecchio, quindi sì. Insomma ce ne sono alcune che sono più che ti fanno, diciamo, molto più smuovere dentro le budella, questa è una di queste. Anche perché ci tenevo davvero a lasciare spazio alla comunità e a non essere la voce della razza, perché non lo sono, perché anzi ho tante cose da imparare, io costantemente leggo parole di altri e cerco di capirci qualcosa, difficilmente scrivo perché mi sento che ho più bisogno di imparare, però credo che sia davvero anche nella nostra quotidianità che dobbiamo interrogarci e per il resto, insomma, venire e godersi questo momento, perché sarà un momento in cui io credo che le persone che, insomma, nere che vivono in Italia o che sono o sono italiane per nascita o in qualche modo per crescita abbiano davvero bisogno di un momento in cui guardarsi e dirsi ok, va tutto bene, stiamo insieme, teniamoci stretti. Io non so come ringraziarti, Selam, sei stata fantastica. Mi dispiace che tu non scriva e aspetto il momento in cui inizierai a scrivere perché vorrei leggerti. Però intanto già parlare con te è stato fantastico e diamoci appuntamento. Vai, fai gli onori di casa per cortesia. Perfetto, allora, appuntamento per Black Lives Matter, il resto non ci fa respirare, ci proviamo domenica. 7 alle ore 16 in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale. Consigliamo a tutte le persone che hanno intenzione di partecipare di venire a piedi in bici o utilizzare i mezzi pubblici, soltanto se non si hanno altri mezzi alternativi, e allo stesso tempo magari prevedere di non scendere tutte e tutti alla fermata di centrale, ma utilizzare la fermata della metro gialla di Repubblica, per esempio, che è molto vicina, o quella di Cagliasso, e che permettono comunque di arrivare in sicurezza. Anche Lima, anche Lima si sta. Ecco, anche Lima, esatto, grazie. Figurati. Io a TM. Esatto, mettiamo questa TM fino in fondo, e per quanto riguarda invece le misure di, insomma, di cercare di stare bene insieme in maniera più sicura possibile, cercate di portarvi un pacchetto in cui contenere tutti i mozziconi, le schifezzine che vi siete mangiati nel frattempo, le cartacce, cioè non creiamo zozzeria, sì, in piazza. Rispettiamo l'ambiente, rispettiamo il nostro territorio. Poi soprattutto indossate mascherina bene, non cilmente come si fa al bar, ma insomma indossatela in maniera propria anche quando parlate con le persone, quindi non soltanto, cioè durante tutto l'arco di quel momento abbiate cura di questa cosa, indossate dei guanti anche se non siete abituati a farlo, ovviamente i guanti non vi permettono di prendere la mano alle persone, ma permettono che lo scambio di oggetti, se necessario, avvenga in una maniera che non crea, diciamo, particolarmente ragioni di eventuali problemi legati alla salute pubblica. Chiediamo di portare un cartello da casa, pensate, riflettete, utilizzate la fantasia, se incontrate delle persone in piazza, in manifestazione, che vi sembrano, con cui avete voglia di dimostrare affetto e per cui avete voglia di dimostrare affetto e di abbracciare, mi raccomando, utilizzate delle maniere creative per farlo, non abbracciatevi e non statevi troppo vicini. Facciamo tipo dei saltelli, sì, salti di gioia. Esatto, portatevi un ombrello e keyway e magari una borraccia d'acqua, così insomma da evitare. E comunque godiamocela, che oltretutto, insomma, oltretutto queste raccomandazioni non so cosa dire di più. Beh, sei stata fantastica. Quando ti vedremo in piazza domenica faremo un sacco di salti di gioia. anche io sono più l'idea di non poter abbracciare tutti i salti, la parte più bella, fine, forse quando sei bello un po' pestato, che ti scambi un po', però invece no. Ci saranno altre occasioni per farlo. Va bene, grazie mille, grazie Selam. Ciao, grazie. Selam. Grazie anche a Macao. Ciao. Ambrosio e Macao. Ciao. Allora, Virgi, io sono rimasto molto colpito anche dall'organizzazione, cioè molto precisa, e anche da quello che ha detto alla fine, godiamocela, perché comunque ricordiamo che queste proteste in generale, insomma... sono movimenti, sì, non violenti. Esatto, esatto. Comunanza. Esatto, assolutamente, e mi piace, sai che io da quando ne abbiamo parlato con Extinction Rebellion e Fridays for Future, io sono molto pro, diciamo, questa mega convergenza fra movimenti, e mi piace come anche adesso Selam abbia dato tutte le indicazioni per rispetto dell'ambiente, così come vedo quando ci sono manifestazioni di, diciamo, ambientalisti o ecologisti che sono molto attenti anche a, per dire, nominare tutti, di modo da avere il rispetto massimo per qualsiasi tipo di genere. Quindi io credo che comunque questa cosa qua avverrà e sono molto contento. Mando una canzone così intanto capiamo se riusciamo a avere Tommy Cudi. Fantastico. Where do I start? I ask myself, how do I write this song? What do I say? Who do I speak to? And are you willing to listen? Another month for my rent due. Got to find a way to pay my bills too. And now I'm too close to my deadline. My 20s and I, we grew apart. I guess it was time for us to break up. And all of my mates walked down the aisle. And I'm swiping left, lost the concept of love. Tracks me to the pain. Get on my knees to pray, hoping to not repeat my mistakes. Walking in quicksand, voice won't scream for help. My 20s and I, we grew apart. I guess it was time for us to break up. And I never thought that I'd be here, still not knowing how to live in this world. I'm standing in line, waiting for my time. I'm standing. Allora, torniamo in diretta con il nostro secondo ospite, Virginia, presentacelo. Non sono io il secondo ospite, ma il nostro secondo ospite è Tommy Cuti, è un rapper di cui io sono parecchio fan, che tra l'altro è in studio in questo momento e sta registrando un pezzo nuovo. Ciao Tommy. Ciao, buongiorno, tutto bene? Tutto a posto, e tutto tu sei? Tutto bene, grazie. Immagino che sia una buona giornata per te se sei a registrare. Hai detto che stai registrando un pezzo emozionante e non vediamo l'ora di sentirlo. Credo che lo sentirete presto. Oggi, mentre scrivevo la strofa per la prima volta nella mia vita, mi sono commosso perché mettendo insieme tutte queste frasi ho detto: minchia, ma sono emozionanti veramente. Scusate se ho detto la parolata, ma no, ma le emozioni si meritano anche le parolacce, le emozioni. Ero sul treno e piangevo come uno stupido. Stavo riflettendo un po' su certe cose che sono accadute. Per fortuna avevo gli occhiali, certe cose che sono successe ultimamente sono emozionanti. Occhiali e mascherina, praticamente nessuno poteva vedere le tue lacrime. Senti, io sono rimasta abbastanza colpita da quello che hai detto su Instagram, insomma, un video su IGTV che hai postato in cui parlavi di come hai vissuto questi giorni che sono giornate particolarmente intense e di come si traducono certe tematiche anche in Italia. Per te, che sei un ragazzo afro-italiano, c'è una storia anche che hai vissuto che non corrisponde a certe storie che succedono in America, ma che è una storia che riguarda proprio l'Italia e che riguarda anche il mondo in cui lavori, in cui operi, che è il mondo dello spettacolo, della musica. Vuoi riassumere un attimo per noi il motivo per cui ti è venuto di parlare di rappresentanza, di rappresentazione? No, a me ha fatto davvero arrabbiare come molta gente, sia dei major, di etichette, che pagine Instagram, di quella, si sono messi a condividere il problema del razzismo in America e stavo realizzando che nessuna di tutte queste realtà ha mai ammesso il problema del razzismo che c'è in Italia. Cioè, alla fine io posso dirti, quest'estate sono stato, parlo del problema del razzismo che c'è anche nell'industria musicale, no? Sono stato in giro in Francia quest'estate, in Inghilterra, in Polonia, dappertutto, no? In Portogallo, e stavo realizzando che in tutti i paesi che sono limitrofi all'Italia, attorno all'Italia, la scena musicale è molto più diversificata. origini diverse. Invece in Italia sembra che la scena musicale sia principalmente autoreferenziale. E io lo ammetto che magari l'immigrazione in Italia è cominciata più tardi. Però è un po' triste che siamo ancora rimasti solo a Mammutti, vince Sanremo, e tutti si incazzano, tutti si arrabbiano. Però credo che bisogna fare qualcosa anche da questo punto di vista per migliorare la diversità e l'evoluzione del paese da questo punto di vista. Vogliamo fare ad esempio qualche nome di ragazzi con cui hai lavorato o che conosci che sono sottorappresentati e che non sono meno validi di altri rapper che fanno parte, diciamo, di giri più grossi? Sì, ma tipo nel mio video dicevo che c'erano artisti tipo Fula, Young, Roy Rhymes, cioè sono vari artisti che fanno rap come me. Lo fanno più o meno di me, cioè nel senso allo stesso livello, però purtroppo io sono l'unico che è riuscito a filmare con una major e avere la possibilità di avere risonanza magari nazionale. Certo. E posso dire che quando ero in Universa ero davvero su 300 artisti, ero tipo l'unico nero. E va bene, qualche giorno fa mi ha tirato le orecchie a uno dei manager di Universa, e mi ha detto, ma in Universa c'è Elodie. No, però io stavo spiegando il discorso che c'è una bella differenza tra essere veri come Tommy o veri come Elodie, che uno non ce ne accorge. Era questo il discorso. Sì. È sempre la rappresentazione, ed è quello che dicevi che mi ha colpito anche, che è un po' la questione del gettone, no? Se anche di come viene rappresentato il ragazzo afro-italiano o africano nei film, quando ti dicono vieni a fare la parte, e la parte poi è la parte, non so. Sì, perché i registi, i direttori artistici italiani non si immaginano che neri facciano cose diverse da fare lo spacciatore, fare il venditore ambulante, sempre queste parti. Io mi domando sempre, non mi rispetta neanche. Per fortuna io non rispetto quel dicevi del rapper che spaccia, giuro, non ho mai spacciato nella mia vita. Ho fatto una volta, mi sono sentito molto rapper, però a parte quello ho fatto in vita mia, no? Però vogliono sempre che faccia quello, e ogni tanto mi sciocca che magari chiedono a me andare a rappresentare quello stereotipo, quando mai nella mia vita non è proprio il mio jazz, capisci? Non parlo quella vita, in quel modo di vivere. Sì, perché manca, da una parte manca la fantasia, forse c'è un po' di ignoranza, ma dall'altra parte forse sarebbe anche il caso di dare il discorso in mano a persone che questa storia l'hanno vissuta e non scrivere la storia per altri. Sì, ma è proprio una questione di ignoranza da un certo punto di vista, perché chi mi conosce personalmente, tipo nel tuo caso, sa che magari la mia vita non è, anche se magari queste situazioni già viste ci sono cresciuto dentro, però ho scelto proprio per scelta di non aderire a quello stile di città, no? Ed è strano che chiamano me questo buono con questa vocina simpatica e dicono dai, fai lo spazzatore. Ed è strana come cosa. Secondo te quale potrebbe essere una soluzione? Beh, innanzitutto dare spazio anche a più artisti, e vedo che tu utilizzi anche i mezzi che tu hai e il fatto che hai una notorietà e un'influenza maggiore per dare spazio ad altri. Abbiamo detto Young, abbiamo detto Roy Rahim, Fula, che comunque sono molto fan, tra l'altro, di tutti questi che hai nominato. Certo! Wow. Ho dato un pezzo di Young a Fred da mettere nella nostra playlist, non so se faremo in tempo, però ci proviamo. Tutte cime, sì, che tra l'altro Madonna, tutte cime una hit. Ma vero? L'ho fatta io una base di tutte cime. Madonna, una delle pochissime basi che ho fatto nella mia vita, però l'ho fatta io. Cazzo, vedi che ho imparato una cosa nuova, porca troia, sono mega fan di quel pezzo. Allora lo dobbiamo mettere per forza. Dobbiamo mettere tutte cime. Senti, noi siamo in ritardo con tutto, intanto ti ringraziamo un sacco per aver partecipato alla nostra modestissima trasmissione, e se ci sei ci vediamo domenica in piazza, in manifestazione. Abbiamo parlato adesso con Selam, una delle ragazze che fanno parte degli organizzatori, e sarebbe molto bello vederti, e faremmo anche molti salti di gioia se ti vedessimo. Nel frattempo ti auguriamo di stare bene, insomma, e di spaccare tutto con questo pezzo nuovo. E direi che la chiudiamo mettendo tutte cime di Young. Che assolutamente, Virgi. Grande Tommy. Grazie Tommy. Ciao, buona giornata. Allora Virgi, intanto che parte tutte cime sotto di noi, io ricordo ancora domenica la manifestazione che prima insomma anche Selam ci ha ben illustrato ringrazio tantissimo i ragazzi e ragazze di Napoli che ci concedono sempre questi spazi qua. Invadiamo sempre, ragazzi. Invadiamo sempre gli studenti autonomi che ci danno il loro spazio. Quindi adesso chiudiamo, salutiamo tutti e tutte. E a presto, mi raccomando, non smettete mai di lottare per i valori in cui credete. Tutte cime! Sputo ciò che voglio nei versi, testi incesti tipo nei cessi. Frate inutile che pensi male, preso da una crisi lessicale. Da quanti fogli sto a cestinare, manco c'è un numero da stimare. Temi che trami una mossa, tremi e ti scavi la fossa. Il nome lo segni, fradico per forza, Yankee ti carica più della corsa. Sto disconnesso da un pezzo, però vi spacco lo stesso. Io faccio un verso e ne esci depresso, un po' come Stasi a fine processo. Mischio la Sprite con lo sciroppo, giuro fratello tu parli troppo. Senti sta merda poi dimmi, son fresco folata dal cielo vento scirocco. Non sanno manco parlare dal vivo, sti babi vengono in raduno. Vieni qua collo con 10 coglioni, non ne fate nemmeno uno. Merda. Senti questa merda e ti innamori tipo Molly. Fumo troppa erba, cannoniere tipo Holly. Con i miei negri ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ho la bocca impastata e non mi escono più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba non finire. Fra mi sembrano tutte delle cime. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. Ho la bocca impastata e non mi escono più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba non finire. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. Porta rispetto fra chiamami tonto. Ti faccio viaggiare fra tom tom. Giovane forte alla tam tam. Tu pallone gonfiato pom pom. I miei frati dicono Bulma Fonto. Cercando loro torna conto. Come finisce non te lo racconto. Dico solo che non usano il condo. Bro non fare troppo il bianco. Sai davanti un blacca. Fumi e non ti muovi più figura di murcaca. Per tu tira fisti. Questo negro non si placa. Verde ganja mica lega merde. Quindi shada fuck up. Entro nel gioco poi tiri tiri. Oppure nel corpo fra ghiri ghiri. Vedo solo mega cime dovunque mi giro. Ti giuro son chili chili. Con i miei frateniamo un'espressione alla neri neri. Willy willy. Alberi arancino baobab. Oran bad. Willy willy. Senti questa merda ti innamori tipo Molly. Fumo troppa erba cannoniere tipo Holly. Io con i miei negri ti giuro.